GR24, il sole 24 ore. Le acque si sono calmate, c'è più stabilità, dice Van Rompuy. Poco fa si è concluso il vertice europeo. Mai avuto rapporti intimi con Ruby, si difende in aula Milano Berlusconi e il bunga bunga era solo una battuta. Fra poco i funerali del trentenne ucciso per errore dalla camorra. I familiari scrivono al ministro Cancellieri fermare la strage dei figli di Napoli. Un bambino iperattivo tira un tubetto di colla alla maestra e la scuola chiama i carabinieri. È successo in Veneto. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Si difende Silvio Berlusconi in aula a Milano per il processo Ruby. La memoria corre ai tempi del bunga bunga. Sentiamo. Questo è un processo alla mia vita privata, alle feste nella mia residenza di Arcore, e si tratta di un'intrusione senza precedenti nella vita di un cittadino. Lo ha denunciato oggi Silvio Berlusconi durante le sue dichiarazioni spontanee al processo Ruby in corso a Milano, che lo vede imputato per concussione e prostituzione minorile. L'ex premier ha spiegato di non aver mai avuto rapporti intimi con Ruby, ha ribadito che credeva lei avesse 24 anni e che le aveva solo concesso un prestito tramite il suo amministratore. Berlusconi ha poi spiegato di aver fatto la famosa telefonata in questura la sera del 27 maggio del 2010 solo per evitare conseguenze diplomatiche, dal momento che Ruby aveva raccontato di essere imparentata con Mubarak. Poi ha fatto riferimento al bunga bunga e alle feste ad Arcore. Bunga bunga, questa espressione nasce da una vecchia battuta che ho ripetuto più volte prima dei fatti contestati ed è stata riportata doviziosamente dalla stampa. Nella discoteca che era stata dei miei figli si ballava. Posso quindi escludere con un'assoluta tranquillità che si siano mai svolte scene di natura sessuale. Durante una pausa del processo, Berlusconi ha anche risposto ai giornalisti riguardo alle elezioni in Lombardia, all'eventuale candidatura di Maroni e alle possibili alleanze. Non me ne sto interessando, francamente, ha detto il leader del PDL, ma si sta occupando di tutto il segretario del partito Alfano. Adriana Fracchia, Radio 24, il sole 24 ore. Abbiamo sentito le parole di Berlusconi proprio nel giorno in cui emergono nuovi guai per i politici lombardi. Da parte sua invece ha parlato anche il segretario del PDL Angelino Alfano, ha detto: cacceremo dal partito i ladri, rubagalline, i malfattori e i gaglioffi, tolleranza zero. È accusato di aver intascato mazzette per agevolare il rilascio di concessioni edilizie Sandro Sisler, il coordinatore provinciale del PDL di Milano. L'inchiesta della Procura di Monza, nella quale risulta indagato per corruzione, riguarda un giro di tangenti nel comune di Carate Brianza, del quale era stato assessore all'urbanistica. Da questa mattina carabinieri e guardia di finanza stanno eseguendo una serie di perquisizioni nelle sue abitazioni e nel suo ufficio nella sede del partito a Milano, ma anche nella sede dell'Aler della provincia di Monza e Brianza e in quella della società lombarda informatica di cui Sisler è rispettivamente presidente e dirigente. I militari cercano riscontri sulle dichiarazioni rilasciate dagli altri indagati, in particolare da quelle di Maurizio Altobelli, il responsabile della commissione edilizia del comune di Carate Brianza, arrestato lo scorso 12 luglio. Agli inquirenti ha raccontato che Sisler ricopriva un ruolo di primo piano nel presunto giro di mazzette finito al centro dell'inchiesta di Monza. Andrea Viali, Radio 24, il sole 24 ore. Il punto di Stefano Folli. La tangentopoli degli enti locali, come la chiama il ministro Severino, prosegue in uno stillicidio di inchieste a Milano e altrove, che ha l'effetto immediato di creare un fossato sempre più grande fra le istituzioni e l'opinione pubblica. È incredibile come la classe politica territoriale non avverta il baratro che le si apre davanti. Si veda ad esempio il caso della presidente del Lazio dimissionaria, la Polverini, colta in questi giorni mentre faceva shopping a Roma con la scorta, commettendo varie irregolarità. Ci si aspettava un sussulto, un colpo d'ala, almeno sul piano morale, ma non è accaduto. E infatti si va verso le elezioni a fari spenti. Tra pochi mesi le forze politiche potranno rivendicare il loro pieno ritorno sulla scena, dopo la parentesi dei tecnici, ma quanto saranno realmente legittimate a governare e in grado di farlo? La domanda è ancora senza risposta. DDL anticorruzione, il parere del CSM sarà sostanzialmente positivo pur con criticità che abbiamo il dovere di sottolineare. Lo precisa il vicepresidente del CSM Michele Vietti, sottolineando come tali criticità si appuntino sul regime generale della prescrizione e semmai sulla Cirielli. Di questo argomento torneremo a parlare fra poco in Italia in controluce alle 13:30. Ed ora invece voliamo a Bruxelles per il Consiglio europeo che si è appena concluso e ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Sergio Nava. Buon pomeriggio. Sergio, raccontaci allora quali sono state le conclusioni di questo vertice, come sono andati i lavori? Innanzitutto siamo in attesa della conferenza stampa finale del Premier Mario Monti, che parlerà tra poco e quindi porterà il punto di vista italiano. Quello che possiamo dire, la novità di questa mattina, sono le dichiarazioni del Presidente europeo Herman Van Rompuy, che ha tracciato un quadro in chiaroscuro della situazione europea. Il punto di vista, come dire, migliore, dice Van Rompuy, che si sono visti cali spettacolari degli spread su tutti i paesi dell'area euro, un calo dei differenziali dei rendimenti tra titoli di Stato rispetto al Bund tedesco, che rappresenta, dice Van Rompuy, il miglior segnale di calmieramento dei mercati sull'area euro. E Van Rompuy ha intravisto anche una maggiore convergenza degli indicatori, tanti indicatori economici tra i paesi dell'area euro, e questo, dice, è positivo. Positivo anche ovviamente per l'Italia quando parliamo di spread. Ciò che non va, ha detto Van Rompuy, è la situazione della crescita e dell'occupazione in Europa, che non ha esitato a definire inquietante, e per questo ha ricordato ai leader europei che occorre mettere in atto il patto per la crescita e l'occupazione firmato a giugno. Anche il Presidente della Commissione europea, Barroso, ha detto: abbiamo chiesto ai nostri cittadini grandi sacrifici, ora occorre ridare la speranza. Molte delle aree del patto per la crescita non sono state implementate. Ricordiamo appunto che nella notte è stato trovato l'accordo sulla supervisione bancario, l'accordo su un quadro legale entro dicembre, la supervisione entrerà gradualmente in vigore nel corso del prossimo anno, ma probabilmente non sarà pieno regime prima del 2014, quindi presumibilmente dopo le elezioni tedesche. La cancelliera tedesca Merkel intende infatti sottoporre al Bundestag ciascuna tappa del processo di unione bancaria in Europa, slitta anche inevitabilmente la ricapitalizzazione diretta degli istituti di credito attraverso il Fondo Salva Stati, una brutta sconfitta questa per la Spagna, che era il primo paese, sarebbe stato il primo paese a usufruirne. Su questo abbiamo sentito il ministro per gli affari europei spagnolo, Íñigo Méndez de Vigo, che a Radio 24, come sentirete, conferma non si è parlato del salvataggio spagnolo al vertice europeo. Sentiamo De Vigo. Nos satisface enormemente porque precisamente España e Italia, los gobiernos español e italiano, fueron los impulsores. Per quanto riguarda invece l'accordo sull'unione bancaria, ci soddisfa enormemente, poiché il nostro governo, con quello italiano, sono stati tra i maggiori sostenitori di questa intesa al vertice di giugno. L'accordo di oggi metterà nero su bianco che i regolamenti per la supervisione bancaria dovranno essere adottati entro fine 2012. Dopodiché si metterà in marcia il meccanismo europeo di supervisione nel corso del 2013. Questo è buono per Spagna, per Italia e per l'Europa. Siamo enormemente soddisfatti del risultato. Non c'è alcun ritardo. Non si può pensare che un meccanismo europeo di supervisione bancaria si adotti un giorno ed entri in vigore il giorno dopo, e il giorno dopo ancora la BCE stia già vigilando. Serve tempo. Sulla ricapitalizzazione bancaria non siamo preoccupati. Il nostro sistema finanziario è molto solido. Ci sono problemi specifici su alcune banche, ormai chiariti, e c'è un'apertura di linea di credito da parte europea. E grazie al nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava, che naturalmente ritroveremo nei prossimi GR24. Ora invece il commento del corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore, Beda Romano. Ancora una volta l'Europa rischia di dividere i commentatori. L'intesa raggiunta nella notte sulla vigilanza bancaria deluderà alcuni e rassicurerà altri. Da un lato c'è il benestare politico per trovare un accordo sui principi entro fine 2012. Dall'altro, sulla ricapitalizzazione diretta delle banche c'è ancora molta incertezza. Il comunicato di questa notte è positivo perché rassicura i mercati sull'adozione rapida di una riforma cruciale. Nel contempo non offre sicurezza su quando si potranno ricapitalizzare le banche spagnole attraverso il fondo europeo ISM, spezzando il circolo vizioso tra bilancio sovrano e bilanci bancari. A conti fatti, gli aspetti positivi prevalgono su quelli negativi, anche se la partita è tutt'altro che chiusa. Modalità di voto sia alla Banca Centrale Europea che all'Autorità Bancaria Europea, rapporto tra BCE e autorità nazionali nella vigilanza quotidiana sono nodi tecnici ancora irrisolti e con delicatissime implicazioni politiche. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Un imprenditore brindisino di 70 anni è salito su un traliccio dell'alta tensione alla periferia di Brindisi per protesta. Ai carabinieri ha riferito che lo Stato gli ha chiesto la restituzione di denaro del fondo antiusura perché non è stato in grado di rendicontarlo. Sono in corso accertamenti. La FIOM ha fatto sapere che la Corte d'Appello di Roma ha dato loro ragione sull'assunzione di 145 lavoratori iscritti al sindacato dei metalmeccanici CGL nello stabilimento della FIOM di Pomigliano d'Arco. Respinto dunque il ricorso della Fiat. E nella notte è stato raggiunto un accordo fra sindacati e Banca Intesa sul reinserimento di 1.300 giovani apprendisti che rischiavano il licenziamento. Mauro Bossala della Federazione Autonoma Bancari Italiani al microfono di Livio Lazzari. Noi non possiamo privarci di persone che hanno dato così tanto e per tanti anni e che daranno ancora per tanti anni la loro attività, perché stiamo parlando di comunque di ragazzi e ragazze che hanno lavorato 1, 2, 3, 4 anni presso la banca. Quindi la prima cosa da fare è stato far pensare la banca a questa perdita grossa di professionalità. La seconda è stata quella di spalmare quindi i risparmi che la banca voleva fare, non a carico di una categoria, tra l'altro la più debole, i giovani, oppure a carico di un'altra categoria, gli anziani che dovrebbero essere cosiddetti rottamati, ma di utilizzare una forma di sostegno che è quella prevista dal nostro fondo di solidarietà, in cui ogni lavoratore contribuisce da 4 a 6 giorni dirigenti compresi nell'arco del triennio del piano industriale, riducendosi l'orario di lavoro alla stabilizzazione del rapporto di costoro. Truffa all'INPS per 11 milioni di euro nel Cosentino. Un gruppo di imprenditori, consulenti, commercialisti e sindacalisti avrebbe certificato false giornate lavorative e indennità. Ai domiciliari anche il consigliere provinciale dell'UDC Antonio Carmine Caravetta, che nel 2009 avrebbe ottenuto il sostegno elettorale del gruppo sotto indagine. Al microfono di Luisa Perona il colonnello della Guardia di Finanza Giosuè Colella. Caravetta è uno dei maggiori responsabili dell'organizzazione, che provvedeva con i suoi associati a reclutare e a fornire pacchetti di giornate lavorative fittizie a tante persone, coinvolte complessivamente sono più di 4.000 persone, sono 4.100 per la precisione, ed è chiaro che poi queste persone gli hanno fornito in parte sostegno elettorale nelle elezioni comunali e provinciali. Dato il sostegno elettorale nel 2009 e nel 2009 voi avete iniziato l'indagine, è possibile che anche in concomitanza di altre elezioni ci siano stati fatti analoghi? Questo è in ordine e di accertamento, sicuramente. Quindi state comunque controllando? Sì, su questo non possiamo ancora dire nulla perché ci sono degli accertamenti ancora in corso. Una notizia battuta proprio in questi istanti dalle agenzie: ergastolo per Salvatore Parolisi. Questa è la pena chiesta dai PM di Teramo per l'ex caporale degli Alpini accusato, ricorderete, di aver ucciso la moglie Melania Rea. È morto Fiorenzo Magni, il terzo uomo dell'epoca d'oro del ciclismo italiano, rivale di Fausto Coppi e Gino Bartali. Toscano, 91 anni, Magni vinse 3 Giri d'Italia, ma si era guadagnato il soprannome di Leone delle Fiandre grazie a 3 vittorie consecutive in Belgio dal 49 al 51. Intervistato da Dario Ceccarelli, Alfredo Martini, ex commissario tecnico della Nazionale, lo ricorda così. L'abbiamo definito tutti il terzo uomo. Terzo uomo, ma non sempre è stato il terzo uomo, perché vincere 3 Giri d'Italia nel periodo di Coppi e Bartali, 3 li ha vinti quando c'erano anche Coppi e 2 quando c'era anche Bartali, perché Bartali smise di correre nel 1954, Magni vinse il suo terzo Giro d'Italia nel 1955 a oltre 34 anni. Sai, una volta, per dire le qualità di Fiorenzo, il grande Girardengo, Costante Girardengo, disse, andando a vedere una corsa dilettante alla quale partecipava Magni: se non diventa un campione questo, penso che non mi intendo più di ciclismo. E Magni diventò campione, ma il campione sa da essere chiamato il terzo uomo dopo 2 fuori classe come Coppi e Bartali. E riprendiamo in questa seconda parte di GR24 a parlare del lutto cittadino oggi a Cardito nel Napoletano per i funerali di Pasquale Romano, il trentenne ucciso per errore dalla camorra lunedì in piazza Marianella a Napoli. Il ministro Cancellieri nei prossimi giorni incontrerà i familiari dopo la lettera pubblicata dal Mattino in cui i genitori di Pasquale hanno implorato di fermare la strage dei figli di Napoli. Al microfono di Katia Caramelli, Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, uccisa per sbaglio nel 97, presidente della fondazione intitolata proprio a sua madre. Sono notizie che feriscono e che rischiano di paralizzare se uno invece non mette in atto quelli che sono dei protettori a tutto questo, quello stare insieme e quindi non sentirsi soli. Cittadini, studenti si sono incontrati proprio in quel posto, su quel marciapiede dove Lino è stato trucidato, per urlare forte la sua vita, denunciare quello che è successo e quindi è per cancellare quel purtroppo, perché soltanto se ci mettiamo dentro tutti quanti il nome di Lino e quello che è successo, la sua storia, sappiamo che è la storia di tutti, perché è drammatico dirlo, ma quello che sembra una cosa surreale, impossibile da poter vedere in una società civile, è quasi ordinaria amministrazione a Napoli. Allora noi chiediamo una cosa, grande responsabilità e l'aiuto dell'Italia, perché un'Italia tutta che si lava le mani della camorra non ha dignità. Il governo che deve fare, secondo lei? Il governo deve mettere in campo delle politiche che non siano la terapia, cioè quello che viene dopo fatti del genere, ma che siano la cura, il vero grande investimento, oltre quello nelle forze dell'ordine e della sicurezza, è quello culturale. Ed ora è una storia di cronaca che arriva dal Trevigiano. Marco, questo è un nome di fantasia, è un bambino che frequenta la scuola elementare in un paesino in provincia di Treviso. Da tempo gli è stata fatta una diagnosi di iperattività e dislessia. Martedì scorso, durante un botta e risposta con la maestra, gli ha tirato contro un tubetto di colla e così la direzione scolastica ha fatto intervenire i carabinieri. I militari hanno riportato la calma e il bambino è rimasto fino al termine delle lezioni. I genitori del bimbo però ora protestano e vogliono sapere perché siano state chiamate le forze dell'ordine e non i servizi territoriali di competenza. Secondo la mamma, la maestra aveva tirato per un braccio il bambino per portarlo fuori dall'aula, visto che chiacchierava con un compagno. Il bimbo a quel punto si è divincolato e le ha lanciato un tubetto di colla. Già da tempo le insegnanti avevano fatto presente che spesso non riuscivano a gestire il bambino e oltre un anno fa i genitori di altri alunni avevano deciso di tenere i propri figli a casa finché non fosse stata trovata una soluzione. Sono ovviamente comprensibili le ragioni delle maestre esasperate, ma il ricorso ai carabinieri pare assurdo. Il problema forse è che mancano gli insegnanti di sostegno e che in alcuni casi poche ore al giorno non sono sufficienti. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una questione che fa molto discutere, quella della pericolosità presunta dei cellulari. Come sapete, nei giorni scorsi i giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso dell'INAIL nei confronti di Innocente Marcolini, 60 anni di Carpenedolo nel Bresciano. Marcolini è un ex dirigente d'azienda colpito da un tumore benigno al trigemino dovuto all'uso continuo del cellulare per motivi di lavoro. Sentiamolo al microfono di Giuseppe Borello. La malattia professionale, che quindi mi causa l'invalidità, è dovuta all'uso che io ho fatto in un certo modo del cellulare. Io nelle rilevazioni testimoniali, che dei testimoni sono venuti, si è offerta, non ricordo esattamente quanti, che erano i miei collaboratori piuttosto che i centralinisti, sono stati chiamati a testimoniare da parte dell'INAI piuttosto che della Corte d'Appello o piuttosto che del Tribunale, tanto di verbale, e loro hanno confermato che utilizzavo il cellulare piuttosto che il Codex da 5-6 ore al giorno. Ed ora andiamo allo SMAO, la fiera di Milano City, in diretta con noi il nostro Enrico Pagliarini. Enrico, che ci racconti? Buongiorno, questa mattina sono state presentate e premiate le app, c'è un concorso per ogni categoria, le applicazioni per smartphone, allora ce ne sono tantissime. È stata presentata una per prestarsi gli oggetti su Facebook, un'app che serve per interagire con i contenuti della TV, una per denunciare, pensate, l'evasione fiscale, e poi tra i finalisti c'è anche chi propone un'applicazione per fare in modo automatico con lo smartphone la famosa intervista doppia, quella diventata famosa con le Iene. Sentiamo il creatore di questa app, Nicola Noviello. Eccolo qua. Quindi andiamo a intervistare due persone. L'app con un semplice pulsante, quindi facendo una semplice operazione, compone tutto, si occupa di fare il montaggio, si occupa di montare le domande e quindi crea un filmato già pronto per essere esportato sui social network e per essere condiviso con i propri amici. Quindi io devo fare solo le domande? Sì, bisogna fare le domande, registrare un campione di alcuni secondi che serviranno poi a compensare lo spazio tra un intervistato e l'altro, quindi l'operazione è davvero semplicissima e ben spiegata all'interno dell'app, quindi si occupa di fare tutto quello che solitamente un utente normale non sa fare, quindi la parte di montaggio e successivamente la parte di composizione. Noi continuiamo nel pomeriggio a raccontare lo SMAO qui dal nostro studio, vi diamo la linea. Grazie al nostro Enrico Pagliarini. Si chiude qui questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, il prossimo alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. C'è un livello molto alto e quindi molto più alto dell'anno scorso, se mi permetto, se mi permettete questo. Buongiorno da Roberta Pellegatta. La formula dei giovani cantanti in cerca di successo continua ad attirare il pubblico televisivo. È stata una serata da record quella di ieri per X Factor su Sky 1. Alla prima puntata hanno assistito 815.000 spettatori, il 9% in più rispetto all'edizione già da record del 2011. Si tratta del terzo miglior risultato di audience per Sky 1 dopo la finale di X Factor dell'anno scorso e l'esordio di Fiorello Show. Successo anche per lo Share, che ha sfiorato il 3%, i 900.000 spettatori medi, e per l'interattività. Ieri, nelle oltre tre ore di show, sono stati inviati una media di 8 tweet al secondo e i voti raccolti sono stati 475.000, 10 volte il numero registrato lo scorso anno. Dal Teatro della Luna di Milano ci spostiamo a Firenze, a Palazzo Strozzi, per uno spettacolo di tutt'altro genere. Parliamo di una mostra che ripercorre gli anni 30 italiani, periodo difficile e delicato, che si è rivelato però anche una grande fucina di idee. La mostra si intitola Anni 30, arti in Italia oltre il fascismo. Il curatore della mostra è il professor Antonello Negri. Ci sono tutti i principali protagonisti della cultura artistica italiana degli anni 30, che sono delle affermate generazioni, per esempio Sironi, Carrà, di Chirico, oppure i più giovani, Sassu, Birolli, Fontana. Lucio Fontana è l'artista molto conosciuto per i tagli e i buchi del dopoguerra, ma negli anni 30 era l'astro nascente della scultura italiana. La grande novità di quegli anni è la comunicazione di massa, la nascita e l'uso massiccio della radio, del cinema, del manifesto. E c'è una sorta quasi di concorrenza tra gli artisti che pensano che questa grande comunicazione si possa condurre attraverso la pittura, la scultura, e invece coloro che la praticavano questa idea attraverso forme di riproduzione delle immagini e degli oggetti. In mostra infatti anche una sala dedicata al design. Anni 30, arti in Italia oltre il fascismo, resterà aperta a Palazzo Strozzi a Firenze fino al 27 gennaio. Tieni pensieri nella notte, facce aliene, strade storte, questa è il boia che ti fotte se parli di storie sporche, che sei papo la mignota, vivi in villa oppure in grotta, qua si corre contro il muro se vuoi dare un'altra botta. È stato pienamente assolto il rapper romano Riccardo Valentini, conosciuto come Erbo, che era finito la sbarra con l'accusa di istigazione a commettere delitti contro la vita e l'incolumità pubblica. Sotto accusa il testo di un suo pezzo hip hop composto dopo l'aggressione subita da un amico ad opera di alcuni buttafuori e trasmesso più volte da una radio locale. Alla violenza si risponde con violenza, tra le parole del testo incriminato. Ieri l'epilogo, il fatto non sussiste. Il giudice ha infatti ritenuto che il brano del giovane rapper non avesse contenuti apologetici o istigatori di un reato. Il richiamo alla violenza, si legge nella sentenza, va interpretato come un grido di autodifesa dei deboli. Ho scelto come nuovo presidente del Maxi il ministro per i beni culturali che ha avuto il merito di avviarne il progetto e intuirne le potenzialità. Così il ministro Lorenzo Ornaghi ha spiegato i motivi della scelta di Giovanna Melandri alla presidenza della Fondazione del Museo delle Arti del XXI secolo. Le parole del ministro, dopo le aspre critiche arrivate da PDL e Lega, che dopo aver parlato di lottizzazione hanno invitato la Melandri a rinunciare all'incarico. Ed è tutto per questa edizione di GR Spettacoli. Grazie per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta.